Brecco, brecco, brecco. Completo che funziona bene, bisogna fare. KK, adesso è tempo buono, ne tolgo quelle due fesserie e così ho finito. E tu, tutto a posto? Ah, poverino, lasciava a casa, cosa? Tienetelo a casa, ti fa compagnia. Lui. Cosa? Anche mio genero fa così. Capito? Fine settimana lo prende e se lo porta a casa dal venerdì, poi lo riporta in campagna lunedì quando va a lavorare. Però fine settimana se lo tiene a casa. E allora si alza la mano un Filippo. Filippo tutte le macchine nere che avere è già debuso a Trento, a chi era gioia. Beh fa, ti hai fatto una vita a due anch'io, glielo credo. E io perché non sto bene qua. Sto bene, però. Anch'io ogni tanto mi devo spostare, poi devi fare. E ognuno a casa sua fa quello che le piace, fra, non è quello il problema. Io qua già faccio quello che mi piace, non ho problemi. Condominio molto molto tranquillo. Adesso vediamo, la casa è sempre in vendita, se riesco a concludere anch'io mi tocca la campagnetta finalmente. Ehi, e non andare, già va bene, già va bene. Ehi, quando non c'è piano di massa è così. No, io non ho problemi perché c'ho la barra a muro, il rame, ci sono tutti giallo-verdi che andavano a quel tipo di radio. Qua nei baracchini no, non ce n'è problema, già non fischia nulla. Sì, è un grido, con questa 6-7, un guida dei novedesi. Questa settimana non credo, fra. Tempo un bel brutto, te l'ho detto, anch'io voglio salire a tirare via quella roba che è rimasta, ma c'è tempo brutto. Pioggia e vento, questo vento ha rotto le palle, domani è oltre 30 km orari, sempre a Libeccio, quindi carica qua, poi scarica. Se avessi fatto una giornata di maestrale, pulisce tutto e va bene, capito? Ma a Libeccio carica acqua, quindi devi stare sempre allerta. Alla grande, fatti, conservati, già pronti, ne ho due, uno praticamente, cioè due accoppiati che sono intorno ai 35-40 ampere e l'altro è da 80 ampere, sempre tutte e due a 24 volts. No, sono due alimentatori da 50 ampere comprati fuori, 25 euro, 20 euro mi sono costati, 20 e 20, 40 più 10 euro di spedizione, 5 euro l'uno, capito? 50 euro li ho pagati, tutte e due da 50 ampere, e me li ha fatti Gigi, accoppiati, e poi messi dentro un case, no? In alluminio, forati, tolte le baranine, alimentazione, interruttore, accende e spegni che si illumina, senza niente, molto semplice ma abbastanza funzionante. Sì, anch'io ho il PS50 da che, però ho messo da parte, intanto la radio non ho più, linea non ce n'è più, adesso quando arriva al 4.30 vedo, rimetto la linea com'era e vedo un po', ti ripeto, se ho una buona offerta do tutto assieme e se no rimane in Kiwi, non me la fotti nulla, non mi sta chiedendo niente. Ma se tu ti vesti di usare 4.40 superiore, tutti uguali sono. Superiore al 4.40 c'è il 4.30, se per questo, come dice il trasmettitore, molto più, va molto molto meglio e non crea problemi. 10 anni mi 4.30 fra, ce l'ho io, 10 anni. L'ho mandato venerdì a revisionare perché ho conosciuto un bravo tecnico incontinente, onestissimo, e quindi gliel'ho mandato perché mi aveva revisionato i 240, capito, che ho venduto, così gli ho dati a posto, e ho mandato anche questo perché è onesto. Fare tutto quello che c'è da fare, cioè cambiare spinettine, fai tutto quello che c'è da fare, una bella centratura, una revisione completa, una messa a punto, e appena arriva, ti ripeto, decido cosa fare, se tenerlo o metterlo in vendita a linea completa. A pezzi non vendo nulla io, a pezzi ci vendi l'elastico, bambù dandi, e così faccio io, MC60, alimentatore e colonnina per radio, chi offre di più, glielo, capito, se no già rimane in Kiwi, non me ne la fastidio, sto così bene amico, il baracchino io, non vedo, non sento, non parlo, non c'ho più nulla, ti giuro come fratello, non c'ho più niente, nulla, solo il baracchino, e basta. fine dei giochi. Non mi interessa, ma io penso a me, fra. Assolutamente, è una cosa che non mi interessa più, e quindi decido io cosa fare di me. Io sono CB e faccio CB. Baracchinos, funziona bene sto grazie. Va molto molto bene. Io ne ho avuto due, ma bene come questo no. Questo è l'ultima serie, il 6 bande. Il 6 bande, voi già ne vedete 5 bande, questo è 6 bande. È una bella bestiolina. C'ha 25 watt in banda laterale, 15 in FM e 15 in AM. E questo darà la F. Questo è il 6 bande, ultimo. Molto bello, nuovo. Già si rifatti nel bagage, però sono contento che funziona bene, capito? Quando tu compri una cosa e funziona bene, allora tutto va bene. Ah, se non si vi hanno da fra. No, quelli là me li ha regolati a 13 e 9 e vanno veramente bene. Li ho già provati con l'R-Meter che va a 24 volt, se no io ho l'R-Meter a 1000 e va a 24 volt, ma ti dico lo porta come una scheggia, veramente molto molto bene. Però ne ho staccato tutto, non mi interessa. Come si mette la scatola dentro l'armadio, l'unica cosa che mi sono rimaste sono gli amplificatori. E boh, ma non li do perché intanto sono invendibili, ti danno dei cheat, me li tengo, non me ne fottiamo nulla, del resto vado tutto fra, tutto mica. L'ultimo 140, perché ne ho dato uno o due settimane fa, e l'altro è partito lunedì, praticamente ieri mattina l'ho consegnato. Quando fanno così a me ci metto le mani dentro, la lascio aperta. No, io c'ho anche il B300P, nuovo di zecca dentro la scatola, nuovo, che potrei anche attaccarlo a questi baracchini, ma non mi frega niente, con 15 watt io vado in capo al mondo, ma cosa me ne futti. No, sono tenne buone, fra, già vanno bene. Io non ho mai avuto problemi con l'auto, la verità. Sempre stazionarie molto, molto basse. Non c'ho manco uno. 0,095, in quello digitale segna. 0,95 stazionarie. E si conferma, e lì mi ricordo il lavoro che ho dovuto fare per montare quell'antenna, perché c'è il tetto, poi c'è la soffitta, capito, quindi il tubo scende giù, è un casino quando è così, fra, bello da me, sali, fai tutto qui su che ti piace, no? Passeggi, ti muovi bene, hai tutto a portata di mano, capito, non c'è un tetto così, è una favola, fra, infatti io mi ero organizzato benissimo, avevo un bel sistema, tutte le antenne in ordine, tutto. Poi ho tolto tutto, intanto non le uso, ho venduto tutto. E meno male, quindi tramite Luca, Flipper, abbiamo venduto tutto. Radio, antenne, rotore, tutto gli ho venduto. E allora, già va bene. Già andavè, KK, eia. No, io va bene così, fra. Questo tempaccio che sto facendo, va. Sono tranquillissimo, romano. Prima non dormivo mai, mamma mia. Mi ha rumore che intendio, ero sempre sveglio. Mamma mia, lo so. Lavorare in quella macchina è un bel compatto. È molto, tutto una cosa vicino all'altra, non c'è spazio a mettere le mani, lo so, l'ho visto a... da Rosseto quando mi ha fatto la cinghia di distribuzione, cioè va il motore per terra perché non viene bene, capito? È un casino, ho bugato baraurti, tutto ha bugato, tutto davanti ha dovuto smontare, mamma mia che... E beh, quando la piazzi questa antenna? Marisa ancora abita lì o no? O il figlio c'è? Ah, e Marisa che fine ha fatto? Adesso non ti ha ingrassato quel ragazzo, madonna che... Era un bel magro, stava un bel bene, anche perché altro l'ho visto, ci siamo visti al mercatino un giorno, al bar del mercatino che c'è, quello, non mi ricordo come si chiama, ex fuori lì, è diventato un bel grasso, per me è troppo, perché non c'è lo spurgo automatico? Ah, la ricifa. Ah, no, è vero, quando cambi il filtro del gasolio c'è lo spurgo automatico. E io l'ho fatto da poco. Ho fatto due cuffie davanti, un cuscinetto e due braccetti. No, due giunti, due cuffie e un cuscinetto. Ma te li hai messi i cerchi? La tua aveva le pattane, mi ricordo, no? KK. E vabbè, anche i miei sono originali, i cerchi in legno. Andavano bene. Perché a Sassari usare macchine con i cerchi in lega è un casino. Cazzo, volevamo l'Italia, che pare in Italia, in campagna. Ehi, Fra, vai, tranquillo, già sono qua, non c'è problema. Ciao, anche a te, Fra. Beh, ti hanno lasciato sotto. Oi, Franco, Gianfranco. Come andiamo di bello? Accidenti, intanto mi viene questa specie mal di gola. A forza di biglia freddo arrampicato a destra e a sinistra. Oh, il Claudio caro, la vecchiaia. No, non ti puoi più arrampicare, no. Lascia stare, fai arrampicare gli altri. Non ti ho più sentito, è troppo. Gianfranco sarà impegnato col lavoro. Tutto bene, ci tira avanti. Sì, in effetti ero impegnato. Impegnatissimo al lavoro anche, ma nel tempo libero poi a posto stare in radio stavo fuori a pigliare un po' di caldo. Ho dovuto riparare ormai è pesante con l'antenna che ti dicevo che mi hanno fatto a beffa lì le cornacchie, cioè il piede è staccato, figurati queste bestiacce, il casino che hanno fatto. Ho dovuto risaldare all'interno, meno male sull'ottone ci sono riuscito. Sono rimasta a nuovo, stazionarie bassissime, e poi riportata su una vadiga, ogni 18 metri di tubo da salire con l'argano. E poi ne ho piazzata un'altra, me ne è rimasta un'altra, che anche quella l'ho piazzata. Insomma, ogni volta che succede qualcosa mi ritrovo un'antenna in più. E poi finalmente sono riuscito anche a buttarne un albero enorme che avevo paura che cadesse sulla casa, cavolo, con questi venti che oramai ci sono, c'è poco da stare tranquilli, e anche quello è fatto. Adesso quando ho tempo libero ogni tanto me ne taglio un pezzo per metterlo dentro la stufa. È un casino, ho visto anche oggi la raffica del vento, domani sembra che sia ancora più alto il vento, non so, non lo so, io sono uscito stamattina a fare un paio di commissioni e poi praticamente ho aspettato mia figlia che uscisse dal lavoro, è arrivata alle 2:30, abbiamo pranzato, ma manco addormentato mi so. Sto guardando la TV e poi niente, e poi ero qua. Infatti, no, guarda, io sono uscito stasera, infatti sono rientrato poco fa, che sono fatto un salto da fusare, ho preso 4 PL, mi farà ad un raio, tra poco i PL costano più degli N, infatti per non far brutta figura così andarci senza comprare niente, ne ho preso 4, e buonanotte, 3 euro l'uno, via. Anzi, ricordo 3,50, non lo sono guardato male, ci è rimasto anche male, 3 euro. Adesso, infatti, ne ho fatto un altro ordine, da fuori, non sono fatto arrivare 10. 10 a 1,50, uguali a quelli che loro vogliono, 3,50. Disastro, stanno tutti aumentando, tutti facendo, mamma, non si comprende più nulla, non sai che santo rivolgerti. Io lo so, sì, io lo so, li ho portati nuovi, ma è troppo caro. Io infatti ne ho ancora qualcheduno di quelli che avevo ordinato da fuori. Quando mancano, chiamo e li faccio mandare. Anche se non mi serve più niente, sicuramente. Anche perché ho tolto il commutatore lassù, anche quello della a me di tronco. Non so, lo devo tutto pulire perché era tutto pieno di grasso, sotto il piede, devo lavare bene con la benzina, soffiare, con una bella passata di spray, lo conservo. Quindi non è che mi servano piele per su o per giù, eccetera, ma se dovessero servire li ordino da fuori, fra, perché qua c'è Mondestra, non c'è niente da fare. Purtroppo è un disastro. Poi ti dicono, ma perché compri da fuori? No, è perché anch'io, cioè, i soldi non me li regalano, devo lavorare, quindi quando iniziano a essere importi, è di lì 2 euro in più, è di là 5 euro, e l'altro 7. Ti fanno giro i conti, cavolo, dico, ma quelli anche la spedizione gratuita mi fanno e io devo stare a sventiare con i matti, poi non c'hanno molta roba, no, mi spiace, non vanno. Oi. Ma ho sentito che se ne puoi venire in questa zona, sicuro sì. Mi immagino lì dove c'è quella zona, non è esattamente la zona tua, è sempre salendo per andare a Monte Oro, dall'altra parte, la parte bassa, capito? No, perché se vuoi, se vieni in zona ti mando subito una squadra di bravi manutentori che ti fanno tutto gratis, cioè gratis no, ti radai un pochettino di adesso di prosciutto, il pezzo di pollo, quelle cose lì, se poi c'è anche qualche aragostina va meglio. Se ti bastano una squadra di 10 elementi, tutti con la coda e a 4 gambe. Vai, ti danni a 3, mio genero lì. No, c'è una bella casetta lì, solo che non è finita, e quindi... Voglio avere un pochino, ma già ne parliamo di persona, Gianfranco. Io molte volte non posso entrare perché già lo sai, non sono in servizio, devo stare attaccato a questo impianto di telefono e quindi non posso neanche entrare in radio, ma oggi ad esempio ho finito alle 5. Mi ha approfittato per andare a sposare, perché ogni tanto ti sento e ho capito, diciamo, questa informazione, quindi ho detto va un altro vicino. Mi piacerebbe sapere chi c'è sopra me, c'è una Mantova, uno da tanti anni, però non ho mai sentito nessuno, e chissà di chi deve essere qualcuno che c'è da tanti anni lì e poi non ha più modulato. Poi in fondo c'è cosa che non mi viene il nome, cavolo. Quello che ha messo il traliccio, che ha avuto tutte quelle seccature lì, con le direttive, che hanno mandato tutto, anche i baraccelli. Auci credo che sia, quello che si arrampica dappertutto. Beh, ma penso ne abbia tolto tutto, non lo so, Gianfranco. Non vuoi fare domande strane perché sinceramente non so risponderti, io lo sai che sono fuori dal mondo. Non lo so, ho sentito qualcosa che aveva tolto tutto, aveva venduto tutto, ma penso che sia lui, ma non posso risponderti. In effetti non ho guardato, Non ho guardato perché si vedevano, già uscendo dalla mia via, si vedeva. Però non se le ha tolte, non le ha tolte perché qualcuno ha detto cosa, perché tutti quanti le hanno dato ragione, perché ovviamente è in casa tua, quello che vuoi, quando c'è le autorizzazioni, c'è poco da là. Infatti sono tutti attaccati al trampo, che siete cretinate, no, ma una vera radiazione, ma c'è un coso di fesserie che anche chi veniva a controllare ne scappava la risa. A volte incontro certe persone di un'ignoranza abissale. No, in questi giorni, tutta questa settimana qua c'era un casino qua veramente, ogni tanto uscivo fuori a vedere uno spettacolo, c'erano i tralicci volanti, lo sai? Cosa c'erano? I tralicci che volano. che volano per l'aria, non sto scherzando, tra l'ICI dell'Enel. E come mai? C'è stata un'altra trombata? No, siccome avevo già notato da parecchio che c'erano, è stato quasi d'abbandono i tralicci dell'alta tensione, senza cavo, quindi forse hanno progettato qualcosa e come succede in Italia sempre l'hanno lasciata abbandonata. È arrivato questo elicottero con queste squadre della Terna, hanno iniziato a staccare, uno hanno staccato anche vicino a casa mia, li toglievano da giù, non so se siano abbandonati quei pali, sono pali enormi, no? Li avrei visto tantissime volte, ce li ho anche vicino a casa, però quelli alti, li hanno tagliati, in qualche modo svitati, agganciati all'elicottero, e questo si sollevava, questo elicottero, e andava verso Monte Oro a depositarli. Ma roba di una trentina di passaggi, quindi una trentina di pali a tolto, ma con uno spettacolo veramente micidiale. Poi basso basso sulle case, ne hanno tolto uno che era attaccato a una casa con una precisione, proprio gente veramente in gamba, è un lavoro pericolosissimo anche per quelli degli elicotteri, perché gli isolatori li staccavano perché non ce la faceva. Tutti i dati che hanno tolto un palo che era zuppo di terra, no? Tutta la base zuppa di terra, si è fidato, e stava andando piano piano piano rasente il suolo quasi, una cosa da paura. Ma non hai fatto filmino? Ma che no, perché ho paura che mi chiamasse al telefono, sempre sono sempre a disposizione, come diceva quello, agli arresti domiciliari, però a disposizione, e quindi ho solo potuto guardare e basta, guardare e non toccare. Aspetta, sarebbe stato bello fare un bel filmino, vedere questa cosa volare così in aria. Ma io non me l'aspettavo che un elicottero così piccolo potesse sollevare un peso del genere. Veramente, devi vedere questi, questi non so se fossero gente di Sassari, qualche di Sassari o di fuori, perché cioè presenti le scimmie in quei pali senza scala, senza niente, no, lo sai come sono fatti i pali dall'alta tensione, camminando a quattro zampe subito andano su, poi senza piglio, c'erano la cintura che agganciavano quando si dovevano sfoggere per prendere il cavo, no? Che l'elicottero si avvicinava parecchio e lui o la mano si sfoggeva, agganciato ovviamente in sicurezza, col casco e tutto, e lo imbragava, dopodiché scappava via perché l'elicottero aspettava il suo segnale per tirarlo su. Lo so, ma non capisco questo spostamento che hanno fatto così a quei livelli, ma so che dovevano tagliare, fare una qualificazione nuova in quella zona, così mi ha detto mio genero, ma non so. Quindi sai cosa c'hanno perché salgono così? Hanno delle scarpe particolari con i chiodi, con delle punte particolari. Puntano e salgono come facevamo noi a scuola le piatti, chiamiamolo così. E poi si legano con la cinghia di sicurezza per sporgersi, per sganciare i fili. Non quelle che dici tu, le scarpe le usano quelle della Telecom per i pali in legno, di lì c'è poco da chiodare, tutto ferro, acciaio, quello che è. E quindi salgono con scarpe particolari sicuramente, però che appoggino bene su quel ferro lì, non è neanche una scala, perché lo sai, no? Sono tutti fatti a crociera quegli affari, quindi non è che venga neanche tanto bene, però evidentemente lo fanno solo quel lavoro praticamente. L'elicottero veniva ad Alghero e di una ditta di Continente che fa tutti questi lavori, no? Che fa anche tralicci sulle Alpi, in alta montagna. Ho guardato un po' perché col binocolo ho visto la sigla, anche perché poi era vicinissimo questo elicottero. E fanno i lavori in alta montagna, proprio dove c'è la neve, zone raggiungibili, e questi vanno lì e piazzano il traliccio. sarebbe bello vedere quando lo piazzano, nel senso di vedere, perché prima va fatta la gettata ovviamente, se no non si regge da solo il palo. E anche quello sicuramente lo portano in elicottero e poi sganciano il cemento. Lavoro pericoloso. Incidiale, proprio roba da circo. Visto. Va bene. Caspita, se va bene. Ottimo per la truppa. E comunque rimango sempre del parere che poi la fregatura ti arriva quando meno te l'aspetti, come è successo a quel ragazzo. Claudio. Quello. Poi. Cavolo, fammi da controllo. Soccorrere le persone, soccorso alpino, quindi aspetta. Aspetta, parlo Gianfranco. Poi va a farsi una sciata tranquillamente e cosa succede? Mi va la valanga improvvisa, cioè è crollato un costone e ha scatenato una valanga. Inutile, quando ti tocca. Si conferma, aspetta un attimo, mi pare sia Luca sotto. Lu, non stai uscendo? Può fare, ha chiamato, adesso non sta uscendo. Non ho sentito. Sì, già c'è che sto facendo. Sto sistemando un microfono. Adesso? Adesso va bene. Vabbè, lo devo controllare bene, qualche filo deve essere. Un po', sta andando bene, ciao Gianfra. Ciao Luca, sì, io ti sento bene. Sì, ottimo Luca. Perché ho perso lo schema dell'SM20, KK, allora va bene. No, chiudilo così, puntellalo così Luca, va bene. Mi sa che me lo faccio spirare l'atto questo cavo, che tanto è feo, sì, buh. Ma infatti, anche a me non piaceva sinceramente, io lo stavo cercando sempre, poi l'ho mollato, anche il mio, anche io ce l'ho così Luca, è uguale a questo. Originale è così, però è più bello spiralato. Ma infatti io ci metto poco, lo lascio 5 cm da una parte, 5 dall'altra, e poi il resto lo faccio spiralato. È più bello. Sto cavo così a me non piace. Non piacciono questi cavi così. Comunque stiamo andando bene, ottimo per la truppa. Vedi? E non sto uscendo. Ah, ho capito. Ti ho visto che hai capito. Che ne è? Io scelti me già tutto. Avanti Gianfra. Vediamo un po'. Neanche io ho fatto qualche regolazione. Adesso ho fatto altri 3 di quei cosi, come si chiama? Raccordi. Ieri finito il lavoro, volevo mettere il PL e non entra. Cata non era, quasi non era filettata. Ma è una disperazione, guarda. Dopo che l'ho soldato e tutto. Adesso infatti prima di fare qualunque cosa, vedo se vanno bene. E poi li piazzo. Stamane ho parlato con uno che era in continente in 40 metri, sto provando questo apparecchio e mi ha detto che sta andando molto bene, poi mi ha chiesto se c'era ancora uno di Agius, non fa tanto il nome, ma dice che era anziano, lo io non sa, voleva sapere se cosa avevo. Non lo so, però non mi viene il nome adesso. Registrato Black, Raffaele di Agliento, no Agius, Agliento, io conosco solo quello, conosco Dio, l'ho visto una volta nella mia vita, Raffaele di Agliento, quello ha superato la novantina sicuramente, se è quello lì, Agius non lo so se ce n'è, avanti Black. No, questo è comprato nuovo già, questo è quello con le scritte nere, questo è norma CE, questo è l'ultimo che hanno fatto, l'ho preso la Fusaro un paio di mesi fa neanche, sia l'MB più 4 che l'MB più 5, io non ne ho altri MB più 4, solo quello lì ho. Boh, già non lo so chi è che ce l'ha l'MB più 4 vecchio. Di solito qua usiamo tutti le MB più 5, io ho preso un MB più 4 per l'Inuit, per il 294, perché va molto bene, capite? Però è nuovo, nuovo anche la scatola, nuovo, nuovo, nuovo. Comprato la Fujara, io ti ho mandato, l'ho aperto ieri, ti ho mandato lo schema, pensavo fosse uguale. Non so se ne ha Gianfranco di questi tipi di microfoni, Gianfranco. No, io lo sai, c'ho solo quelli AV, com'era, 508, quelli neri per intenderci, ne ho tre da tavolo, infatti mia, adesso sto facendo uno spinotto per adattarlo anche a questo apparecchietto che c'ha un connettore, ci hanno fatto un connettore che mi scappa la risa, anche quelli tipo telefonici. Poi ti volevo dire, quello lì, forse c'ha ragione tu, mi ha detto che quando si sentivano lui c'aveva sempre un detto, ti sento chiaro come non so che cosa, non mi viene in mente, c'aveva sempre questo detto a ognuno che chiedeva un controllo, ti sento chiaro come cosa, provate che fosse quello che dici tu. Ciao comunque Gianni, buonasera, ben ascoltato, riprendi Claudio. Sì, un secondo che sono al telefono, riprendi Gianfranco. Sì, ok, Gianni, da che zona sei? Ah, ecco, per quello mi sembrava che il segnale fosse più o meno identico, stiamo facendo una cosa strana, ohia. Un po' sì. Ascolta, mi dici come mi senti a Muros, giusto per farmi un'idea, perché so dove sei esattamente, però non ricordo se sei a vista oppure se sei leggermente coperto da quella specie di collina lì, perché io vado spesso a Cargeghe che ce lo faccio passare, e quindi quando passo per che non voglio fare lì la parte della 131, passo proprio da Muros. Com'è il segnale? Sì, Gianni, ti ho chiesto il controllo perché io, sia per abitudine ma sia anche per prove, vado sempre con una potenza molto bassa. Guarda, in questo momento la radio mi sta dando il massimo, purtroppo il massimo di questa radio in AM dovrebbero essere 2 watt, in realtà il wattmetro mi segna un watt e mezzo scarso, quindi oltre non va in AM, perché l'AM oramai, come saprai, anche le fabbriche la stanno abbandonando, la considerano una cosa un po' vecchia, ecco. Infatti l'abbreviazione che tutti facciamo quando parliamo dell'AM, diciamo antica modulazione, proprio perché cadrà, anzi sta cadendo oramai in disuso, giusto la CB ce l'ha. La CB e gli aerei, ma gli aerei ce l'hanno per altri motivi, quindi infatti anche quando senti la propagazione oramai sono tutti in FM, che si ascoltano molto meglio, non ci sono tutti questi problemi di radio, di cose del genere. Ok, vediamo se Claudio è rientrato. Claudio, no, forse ancora al telefono. Guarda, io poco fa ho fatto un ordine da una ditta in continente di PL e furgando ho visto proprio dei vecchi apparati CB che sono bellissimi. Ti dico anche i nomi se vuoi, guarda. Sicuramente qua magari sono anche sconosciuti, sono tutti a 12 canali, non ho capito il perché. E sono, uno è il Kaiser, modello KF9012, ed è 12 canali quelli classici. La cosa bella che hanno sono gli Smitter. Poi c'è un Grundig addirittura, modello CBH1000, sempre 12 canali, tutti e due alimentati a 12 bar, a 220 volt. Poi c'è anche un Tokai, il TV5024, è il famoso Sommerkampf che si assomiglia anche un pochino al Tokai, che c'è uno smitter enorme veicolare, però il TS712 e costano pochissimo, veramente poco, sono, dicono, provati e funzionanti. E anch'io ne ho avuto tantissimi gli apparati e mi ricordo Betta Verde, non vorrei sbagliare, ma ci sono stato anche nel suo laboratorio per far riparare una radio, ma non ci ho riuscito. Mi confermi che era quello che stava sempre fumando e era già anziano all'epoca ed era in Viale San Francesco. Dunque via Galè, ma qual era quello che vendeva i baracchini anche? Anzi no, quello era in via Principessa Maria, mi ricordo. Sì. E beh, io un po' li conoscevo tutti, perché insomma sono appassionato da ragazzino, quindi dall'età di 13-14 anni avevo già la radio, quindi. Quindi adesso ne ho abbastanza di anni, quindi non ho fatto neanche il calcolo di quanti, sono più di 45 anni forse, credo, insomma, o no, sì forse sono più di 45, porca miseria, passa il tempo, sì, ma io infatti avevo preso alcuni apparecchi proprio da Costantino Fara ed erano tutti della Inuit, credo, se non ricordo male, e comunque le marche erano quelle. Allora ogni settimana in edicola, perché c'era il coso del CQ elettronica, che poi c'erano tanti schemi, mi ricordo che avevo fatto il collegamento col telefono. Allora i cellulari non esistevano per niente, quindi avevo fatto il collegamento col telefono fisso, insomma tanti progettini interessanti che c'erano. Ma allora si andava anche, non so se hai conosciuto anche il maresciallo di lì, che sarebbe quello che aveva la GBC all'inizio. Quante volte mi facevo a piedi da Viale San Francesco fino a su, a Via Carlo Felice, per comprare pezzi di ricambio, track, insomma. Che bello, che periodo. Infatti adesso è più chiuso che aperto quel negozio. Tutto pieno di pacchi, sembra magazzino, un deposito. Però è quasi sempre sciateggiare un po' per conto suo. L'ho conosciuto da... sì, anche il coso lì, quello che ha nominato, il genere. Sassari, comunque l'hanno preso anche le Sassari. E non ricordo in quale anno poi ho detto che anche lui se n'è andato, non c'è più. Davvero? Luca, sei tu? No. Io ho sentito qualcuno, ma non voglio fare nomi. Sono rientrato, Davvero, sì. Io, c'era il telefono. Ciao a tutti comunque di nuovo. Ecco, ci può entrare? Avanti, c'è posta. Per me o per te? C'è posta per Maria De Filippi, la massa che ne è varia. Ah, ok, va. Ciao Claudio, non ho fatto ascolto, non so neanche che ci sia, ho sentito a Luca e poi qualche altro, però è mezzo a quel rome, non la sento. Avanti Luca. Ciao Massimiliano, buonasera. C'è Gianfranco e Gianni. Sì, c'è Gianfranco, mi pare, io ho lasciato qua Gianfranco che era al telefono e Gianni Capri 2. Avanti Gianfranco. Sì, stavo un po' divagando dei tempi lontani con Gianni. Ok, io devo fare alcune saldature, quindi rimango in ascolto, che ho le saldature molto piccole e quindi occorre un po' di attenzione. riprendi tu Gianni e fai girare, saluto Massimiliano e tutti gli altri che sono entrati. Riprendi Gianni. Sì, ciao Gianni, ti ascolto molto molto molto basso. Ok, sì sì, mi ha portato i tuoi saluti, me li ha portati Michele, dai. Mi ha detto, mi ha portato i tuoi saluti. Saluto anche a Gianfranco, di me lo racconto la radio bassa, ciao. Va bene, dai, va bene, ok, tutto a posto. Saluto a tutti, vai Claudio. Claudio lo riprende. Luca, vai. Non l'ascolto Gianfranco. Non l'ascolto, sì, lo ascolto Santiago 5, ma va la radio, ma io sotto berra. Che Claudio adesso è di nuovo caduto. Va bene, va, vediamo un po'. Gianni, ma mi ha ascoltato, Capri? Andiamo, andiamo. Io ti ascolto molto basso, no? Quasi impercettibile la modulazione. Va bene, ciao Lugariè, saluto anche a te. Ciao Buldo, io lo sento bene a Gianni. Gianni, Capri, mi ascolti? Io fedi no. Non ho capito, scusa. No, non c'ho nulla, non ho niente io. C'ho questo qua che ormai è passato d'epoca. Lo sto vendendo 1.000 euro, però di meno non lo do. Ma scegli a passare al canale 20, io. Ok, dai, vabbè, dai, stavamo pure dando il canale. Oh, Gianni, dai. Niente, dai, cosa volevo dire? Comunque qua arrivi Radio 5, segnali 1. Dai, riprendete che io sono stanco, mi riposo un po', dai. Sono da presto in piedi, sono rientrato poco fa. A più tardi magari, ciao. Manci via, Luca, Flipper, tutti i pari di ciò. Prima fate il ping pong, poi pari. Cosa stavi dicendo Gianfra, non ho capito. Mi stavi chiedendo qualcosa poco fa. Sto tardando! Ah, salva, sa chi è che chiama Sparviero? Ciao Di Mauno, buonasera, Ottieri. Da Ottieri, sì, Santiago 2, sì, molto basso stasera, come mai? Sì, Santiago 2. 2, 3, non... di solito ti ascolto, 5, 6, un po' basso, sì. Gianni, lo senti a Di Mauno, da Ottieri? Luigi, Lima 1, l'hai sentito a Capri 2 da Muros? Adesso Santiago 4, non lo senti a Gianni Capri 2? No, non ti sentono già, sta facendo cosa, ha detto già riprende dopo. Ci è rimasto in questo canale, giusto per capire, perché non ci ho capito più niente. Gianfranco sta saldando, tu, Luca Flipper, ci sei? Massimiliano? Tutti in paradiso. Sì, io l'ho aperto, il mio nuovo, l'ho comprato il mese scorso. Ne ho comprato due, te l'ho detto, un più 5 e un più 4. Ed è quello nero. È quello che c'ha lo strumento giallo, non è quello con lo strumento nero. Lo strumento nero è il primo tipo. Non è a norma C, questi due sono tutti e due a norma C, c'è scritto CE. E sono strumenti, lo strumento è giallo e le scritte sono nere, capito? Il pomello è nero e grigio, quello là invece era giallo e nero, il pomello, quello c'è tu, il pomello, è giallo e nero, questo è grigio e nero il pomello. Ma si vede che sono diversi. La tastiera è nera, quella là invece è grigia la tastiera di quella che è tu. Non so, io quello c'ho, quello schema che mi hai chiesto io ti ho mandato, però se è diverso stai attento perché puoi fare danno, capito? Ci vorrebbe un più 4 modello vecchio. Sono ripreso, Via. E quello la cosa di Gianni Capri 2, buttatemi a massaggio. Via, vediamo un po' se è rientrato qualcuno. Via qua Sonio, KK, mi sono dovuto allontanare così senza dirvi niente e mi ha chiamato la mia laggiù. E infatti ho chiamato, devo fare alcune prove, vabbè, fa niente, rimaniamo qua. Però cerchiamo di far girare, se no ti pare in indutti. C'era anche Luca Flipper, Luca è finito di saldare. Santiago 5 è lui, Santiago 5, adesso è il tuo segnale. Ok K, va bene Ottieri, Lima 1 da Ottieri, noto Luigi, Santiago 5 adesso, prima eri troppo basso. Non riprende nessuno Massimiliano, riprendi tu. Io la verità poco fa ho rilanciato a Luca, a Capri, non è che ero fisso così, capito? Va bene, non c'è prova, che prova devi fare? No, dovevo fare una prova con l'altro microfono, ma intanto non c'è la capsula, sono etichette. Dovevo far sentire col microfono, ti ho mandato la foto, ma poi mi sono ricordato che avevo tolto la capsula perché non andava bene. troppo bassa, esce via la mezzo bruciata. Va bene, va bene. Flipper, attenzione, canale 10, mi ascoltate? Ehi, e chi è che non ti ascolta te? Buonasera a tutti, dai. Ciao già, già ti ascoltiamo, l'importante è che non accendi un altro baracchino nel canale 10, sennò è innesco. No, questo qua è 3009 Massimiliano, non è il Magnum, non è il Cobra. Ehi, caro gioco, ma quando lo spegni, ricordati di spegnerlo, non di lasciarlo nel canale 10. Ehi, già me ne ricordo, dai, adesso. Come esce di radio questo? Non ti ascolto bene. Andare, dai, questo è il microfono normale. Va bene Gianni, segnale tuo, senza niente attaccato, per la radio 5 è perfetto. C'è anche Gianni Capri 2 che ti manda avanti, vai Capri 2 per doppio room. Beh, ripetete che cambio microfono, voglio far sentire l'altro microfono. Ehi, mica ha allineato la radio per te Gianni, 9 più 15 adesso li arrivi, hai visto? Quindi ieri era sbagliata che Claudio diceva che era 7. Aspetta, sta cambiando microfono. Ma Flipper cosa sta saldando? Ma era da voi tu! Ma era da voi tu! Cosa faccio io? Ah, te ne mando i messaggi amorevoli e poi mi cerchi in radio. Che è una cosa allucinante tu Flipper che... Ah, io ho finito, esatto, se tutta la via salterò in mano, cazzo, bluh! Cappa, adesso c'è il M20, cappa. Ah, va bene. E adesso domani gli faccio gli faccio spiralato. Oh, Massimiliano, mi ha detto il tecnico, mi ha telefonato che era battuto la radio. Mi ha detto, quanti anni è che non revisioni questo 4-3? Tutti 10 anni, si vede. C'ha le spinette tutte consumate, che giocano dentro i puntali. Ogni tanto le macchine vecchie bisogna controllarle spesso, acqua e olio. Massimiliano. Paolo me l'ha detto che ha tanto buono con la vitalore di Trimmer. No, la macchina di Nevaio, non ne ho mai toccati quelli, non ne ho mai fatto 4.30. No, guarda, ti giuro, mai fatto. Io quella gomma me l'aveva venduta, l'ho sempre tenuta così, sempre. Poi già se ne accorge lui, perché metto come la linea tutta. Le spinette l'ho detto, tagliare tutte e mettere tutte nuove, non stare lì a cincischiare. Ma detto, beh, che cosa devo fare secondo te? Te le metto nuove, sì. Oh Claudio, guarda con questo microfono come mi ascolti. Bene. Cappa, ma è amplificato, si sente? Sì, un pochino sì già. Perché questa qui c'è la LC originale, dai, non è aperta. Ah, senta usci. Guarda che già nel Capri 2 ha allineato la radio per te, 9.15 sta arrivando adesso. Cappa. Aspetta che attacco l'altro. Claudio. Oh Massi. Lo schifo, come funziona la volta? Lo schifo te lascio a te. A proposito, quando usi il 27, quella radio che stai usando tu, ok, togli l'NB, che mi sono dimenticato di dirtelo. Cosa vuol dire? Nebbia? NB, dove c'è scritto NB? C'è lo slide, c'è scritto NB1 e NB2, devono rimanere tutte e due in fuori. Perché quando l'ha allineata con la radio si è accorto che il funzionamento quello lì è perfetto, mentre dell'altra no. Davvero? Eia. Va bene. Forse per quello che tu ieri a Luca lo sentivi un po' cupo. Prova a sentirlo senza inserire l'NB, Massimiliano. Mi sono dimenticato di dirtelo. Ok, erano già tutti e due fuori. Allora, va bene, no, va bene. Non sei così messo male, dai. Anche perché sto girando ancora scavatore, c'è la testa magari tu. Oggi mi avrei grebbato, dopo oggi ho caricato un bel carro, un bel Ascolta, ma vorrei che mandami le nove un cambio di garage di Gundappa 1. Ma non lo so, con un cambio di garage di chi ce ne batte più di uno, Sì, vabbè, no, l'altro giorno mi stavo prendendo le palle e mi mette sempre la macchina in traverso. Ci mi che un camion di ghisci via, forse si era ingannato, uscino la gatta più la macchina. Attenzione, Capri 2, come ascolti con questo? Con le orecchie. Cappa, e perché io mi sono preoccupato, la tua casa sta scendendo un bel basso, cosa sarà successo? Sì, confermo, bella radio Gianni, cosa stai usando, salenta? Cappa. Ehi, bella radio, bella corposa, bella forte, vai Massimiliano. Sì, la tua, ma adesso sei in bassa o in alta? Già. Adesso in bassa, e così in alta. Ah, quando metti in bassa la radio è ancora più forte. Quindi la lascio così? afferma di aver sentito un vibruzzo di una frequenza. Buona, non lo so, non l'ho assaggiata ancora, comunque, buonasera. Voi ho detto un vibruzzo, voi ho detto nel mare, nel mare, un vibruzzo di una frequenza. Buonasera. No, hai detto buona radio. Buona, non l'ho assaggiata, però. Sono grosso, ma. Cosa c'hai? No, non ho accennato, non ho detto niente. Carissimo, buonasera. Beh. Sì, va bene, sì. L'osso, un bel osso. Guarda. Va bene. Ma io flippo, non lascio saltare fuori, eh. Beh, ha attaccato il faccio. La mazza. Troppo un bel faccio, va su via. Sì, per me già usato, a me mi piace la battaglia, l'ha usato. Io la sono vicino. Perché qua non mi rendo conto, vedo il modulometro del microfono e buco. Potresti anche abbassare un pelo. Guarda così se ha migliorato. Così è buonissimo. Tanto lascia la stampa, puntella, lasciala così. Ciao, guarda, sono al cellulare su WhatsApp con quel finocchio di ginkgo. Con l'ispettore ginkgo? Con quel finocchio di ginkgo. Ah, avevo preso l'ispettore di ginkgo. Va bene. Avanti muscolo, che si dice, che si fa, sempre zappendi? Zappando, facendo le solite cose cantiere, si prendendo un po' di tutte cose. Già, stiamo scavando un po' di fognature, acquisto tutti questa roba qua. Ehi, c'è il nostro livello, vero? Mamma mia, guarda. Ho seguito anch'io quelle cose, per carità. Un amico di Massimiliano, quel bestemmia tirava da. Ci si può travagliare così, ci può travagliare così, sempre a morte sta via. Lui ha chiesto un po' con Molecco. Lui mi congiuro, beh, tu lo sai chi è, no? Il fratello di mio nipote, praticamente, il marito di mia nipote, figlio di mia sorella. Beh, io c'è stato un periodo che quando Giove Trapazzola lo mandava, dicevo, mi ha una cosa di dico io non ho, lo sai che siamo un carattere molto molto strano sul lavoro, chi non so che a volte per fendi polemiche, quello c'è da fare, quello scavo, se rompe tubi, ci verrà rotto, ci vengi pietra, io lo mando via, lo posso fare lo scavatore e te lo mando indietro. Sono una cosa allucinante subizzino. Sa fare il suo lavoro, magante polemico, grazie. Vabbè, ma sono tutti così, quelli che fanno questi lavori. Non lo vuoi sappigliare un bico in mare e cose varie, va. Vabbè, va, facciamo girare, avanti Gianni. Sì, vai Luca. Vai Tino. Cazzo, Zambu, per la radio per fare, vabbè. Niente, dai. Anche io sono Enrico Rix, che faccio. Sto aspettando che esca mio figlio dal bagno per andare a farmi la luce. Sono ritratto qualche 20 minuti fa, dai. Niente di che. Tino, cazzo così veo. Sì, ciao Luca, lo so. Ma io non ho mai detto di essere bello, ma affascinante. Non ti hanno mai detto che sei feo? A me lo dice sempre, ma non me l'ha fottinuta. Capri, riprendi. Sai cos'è Luca, non sono bello, ma piaccio. Aspetta, saluto, ciao Gianni, Capri 2. E non posso senza ascoltarti, ciao. Va bene Gianni, ciao. Un abbraccio, anche da parte mia. Ci si riascolta, vai Claudio. Gappa, va bene, ciao Gianni. Saluti a casa, saluta Franca, già ci sentiamo. Magari ci aggiorniamo per telefono. Va bene, il cambio per doppio room si riprende, se no Massimiliano, per il tuo e fai girare. Arriverà Limonelli al telefono. Ciao Capri, ci sentiamo, dai, grazie di avermi mandato i saluti da quella persona. Saluti al tuo QRA familiare, ci sentiamo le prossime, ok? Va bene, vediamo Filippo, Filippo del telefono. KK, vai Tino. Ciao Gianni! Ma non stavi limonando tu? No, stavo facendo. faccio la roba un attimino. No, non stavo limonando.